Vabbè, anche lui è in tempi nostri, già mangiavo anche io, adesso niente, poca roba. Bisogna essere in linea. Sì, vabbè, ma mi sopra più qualche cosa, si sta stato un governatore, ho visto, chi d'altro. È sempre un problema, purtroppo. Gian Maria non si è sentito far niente, forse era la figlia in paese. Era in paese la figura, esatto. Ma adesso doveva andare dalla figlia, rientrerà domani. Va bene, bisogna fare accompagnare i figlioli, puro. Gli affari puro, hai tu pure, hai qui un poco. State sempre in casa, vate a casa, campagna a casa. Così che, non va bene, non si fa il direttino, non va bene, ormai si va da poco. E tu, in molti siete. Sono io la mia 50, ho visto, io la mia 50. Vabbè, già è mezzo Roma stessi. Pure lei un bel di voi, quando mi voglio riesci ne rimanimo a giura, io mi moglie. Specialmente già per la domenica, se non fare in campagna, se ne siamo in casa. Solo che da se si coffa, io non mi coffo, lui giurito, poi pranzo, mi guardo il telefono. Purtroppo, la chiave, la chiave, la chiave, non ho bisogno.